1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Razza di debosciati, che fate italiani? Veramente lo so, il debosciato sarei io, secondo le accuse, visto che sono stato 3 giorni in vacanza e quindi. E va bene, me la prendo tutta, sono il re dei debosciati, va bene? Ma voi di più, un pochino di più, che siete ancora lì magari a fare colazione o vi state arrabattando per uscire di fretta. Cari amici, che dire, è l'alba della 45esima settimana decisiva per la riforma elettorale, quindi avanti, avanti, nonché dell'abolizione delle province, siamo sempre alla 45esima settimana decisiva, ora per la riforma elettorale siamo un po' più avanti, forse oggi si approva la Camera, poi ci sarà il Senato, l'approvazione, forse domani, non si sa, ma questo è uno dei temi che troviamo certamente sviluppato sui giornali. Noi invece parleremo anche di questo alle 8.45, avremo Francesco Paolo Sisto, presidente della Commissione Affari Costituzionali, uno di coloro che è dato come i pontieri per cercare un accordo all'ultimo momento sulla questione di genere all'interno della riforma elettorale, sarà nostro ospite alle 8.45. Poi parleremo anche di riforma e di giustizia civile, perché ci sono degli episodi, ci sono delle notizie dal mondo della giustizia civile italiano, finiti sui giornali la scorsa settimana, che raccontano uno scenario veramente da fare accapponare la pelle. Questo però dalle 8.15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 10 marzo, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, anti-evasione, la chance degli scontrini detraibili, le scelte vincolate da effetti sul gettito e necessità di ulteriori controlli, questa è l'apertura dell'edizione del lunedì. E poi tutti i giornali si concentrano in apertura sull'intervista che ieri Matteo Renzi, il Premier, ha rilasciato a Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, e ha promesso da mercoledì si inizia a tagliare le tasse. Lo stesso Renzi ha aggiunto, l'abbiamo sentito, non so, non ci crede nessuno, non ci credono neanche coloro che sono qui tra gli spettatori, vedo le facce. Comunque, italiani, ci credete o no, mercoledì e tra 48 ore si inizierà a tagliare le tasse, atteso il Consiglio dei Ministri importante. Allora il Corriere della Sera, giù le tasse ma non per tutti, questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, Renzi, così taglierò le tasse. La Stampa, è duello tra Renzi e la CGIL. Il Messaggero, taglio le tasse e sfido i sindacati. L'Unità, Renzi, priorità alle famiglie. E il Secolo XIX ha lo stesso titolo, Renzi sceglie le famiglie perché la scelta è quella di abbattere l'IRPEF invece che l'IRAP. Questo almeno secondo gli annunci, ma da qui a mercoledì ovviamente si vedrà. Le mosse di Forza Italia, invece, il giornale è il titolo di prima pagina, c'è un'intervista al consigliere di Forza Italia numero 1 Giovanni Toti. Io però voglio partire invece che dalle tasse da una notizia che periodicamente viene rilanciata dai giornali. Oggi il Corriere della Sera dedica 2 pagine a questo e anche il Sole 24 Ore si concentra, vale a dire i pagamenti alle imprese, che è una delle questioni annose. Perché oggi lo fa il Corriere della Sera? Perché proprio oggi scade il termine per cui il governo dovrà rispondere all'Unione Europea. L'Unione Europea chiede che i pagamenti delle fatture dello Stato alle imprese, o meglio delle fatture delle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione, vengano saldate dallo Stato entro 30 o 60 giorni. Siamo ancora ben fuori da quei limiti e allora oggi scade il termine. E scrive Lorenzo Salvi a pagina 3 del Corriere della Sera, sotto il titolo Pagamenti alle imprese, l'affondo dell'Europa, basta con le promesse. La lettera arriverà oggi, è l'ultimo giorno utile per rispondere alla richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione Europea sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione. È una piccola prova di come il governo voglia cambiare atteggiamento verso Bruxelles. Forse il primo tentativo di quel passaggio da ce lo chiede l'Europa a lo chiediamo noi all'Europa. Che cosa chiederà in questa lettera? Cosa scriverà il governo? visto che anche adesso i tempi di pagamento sono intorno ai 170 giorni, come sostiene Bruxelles, è un rilievo senza evidenze. Questa è la risposta del governo. In alcuni settori, come la sanità, al di là di alcuni casi limite, siamo ormai vicinissimi alle regole europee. Non garantiamo che chi sfora i tempi debba pagare una sanzione salatissima. Gli interessi più una mora dell'8,25% inserendo delle clausole furbata nei contratti. Anche sulla montagna di arretrati, questa è la risposta che il Corriere anticipa il governo darà a Bruxelles. Dice la lettera del governo che non ha fondamento la cifra di 100 miliardi di vecchi debiti che continua a circolare e che anche la somma indicata dalla Banca d'Italia, 91 miliardi, è sovrastimata perché è frutto di un sondaggio tra le imprese che probabilmente ha messo nel conto tutte le somme dovute e non solo le fatture scadute, come invece sarebbe corretto. Eppure è proprio quella montagna di arretrati, scrive il governo, che ha reso più difficile far rispettare i limiti di 30-60 giorni in vigore dall'inizio dello scorso anno. Se non fosse cioè stato necessario smaltire tutte le fatture non pagate fino al 2012, sui nuovi contratti la pubblica amministrazione avrebbe avuto tempi di pagamento migliori. Questo è quello che il governo scriverà a Bruxelles, secondo l'anticipazione del Corriere. La lettera arriverà nel giorno in cui Piercarlo Padoan parteciperà al suo primo Ecofin, la riunione di tutti i ministri dell'economia. Sta di fatto che saranno dei casi limite, saranno dei casi assurdi, ma il Corriere della Sera, sempre a pagina 5, si concentra con Luigi Offeddu sui tempi a volte biblici di pagamento di alcune amministrazioni. Per esempio, il record negativo delle ASL, per stare nel campo della sanità, spetta a Catanzaro, dove altro che limite di 30 giorni, altro che limite di 60 giorni, alla Mater Domini di Catanzaro, la ASL, per pagare il debito in media ci vogliono 1337 giorni, 3 anni e mezzo. Catanzaro, Europa. In Italia solo 5 ASL, fa sapere il Corriere, rispettano i tempi dei 60 giorni. Sono la ASL di Pavia, 48 giorni, l'ASL 4 Medio Friuli, 56, l'ASL di Milano, 59, l'ASL di, o meglio, l'IRCS di Trieste, 60, e l'azienda provinciale di Trento, 61. Un giorno in media in più di quello che chiede l'Europa. Le maglie nere invece, Catanzaro, come detto, 3 anni e 4 mesi. Poi Cosenza, l'ASL Napoli 1 Centro, 2 anni e 9 mesi, 1086 giorni. L'azienda di Campobasso, 916 giorni. E l'azienda di Reggio Calabria, 905 giorni. Ecco, questa è la mappa che trovate poi tutta sul Corriere della Sera, il pagamento della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. A proposito di pagamenti, a proposito di rimborsi, a proposito di costi della politica, oggi il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, mette 2 pagine centrali, a firma Emiliano Liuzzi, pagina 8 e 9, a fare tutta la conta di quello che costano i grillini. Grillini low cost, non proprio tutti, questo è il titolo di questa inchiesta. Abbiamo analizzato le buste paga dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. È vero, scrive il Fatto, che percepiscono la metà degli altri parlamentari, ma anche tra loro ci sono differenze. Allora, intanto la premessa è questa: certamente tutti i responsabili del Movimento 5 Stelle restituiscono dai circa 5.000 euro dello stipendio 1.800 euro. Nessuno inciampa su questo, ma è la diaria, cioè quella voce nella quale, che è circa 10.000 euro al mese, nella quale confluiscono tutte le spese, che qui ci sono le discrepanze. Per esempio, la diaria, la voce più importante, è una busta paga che contiene 10.000 euro, scrive il Fatto. E allora Grillo ha scelto la strada dicendo: spendete ciò che è necessario e giustificate, rendicontate tutto. Quello che vi rimane finisce in un fondo che a fine verrà restituito. E qui sono iniziati i problemi e soprattutto le discussioni. C'è chi, come Tatiana Basilio, grillina virtuosa secondo il Fatto, nel mese di ottobre ha ricevuto 10.516 euro, ne ha spesi solo 1.600 in un mese, tutto il resto torna indietro. La voce più evidente è 600 euro di vitto, divisi per 26 giorni vuol dire 23 euro al giorno, davvero molto virtuosa. Ferdinando Alberti, anche dei 10.000 euro, ne ha spesi 3.000. In affitto spende 1.133 euro, dunque pochissimo, niente trasporti, zero auto, 460 euro per mangiare. Virtuosa anche Roberta Lombardi, che risiede a Roma, dei quasi 8.000 euro a disposizione ne ha spesi 2.000, e così Giulia Sarti poteva spendere 10.000 euro, ne ha spesi solo la metà. Gli spendaccioni invece, secondo il fatto, il senatore Fabrizio Bocchino, espulso peraltro, 1.700 euro in affitto spende, 1.700 euro in taxi. Oppure Massimo Artini spende in affitto 3.000 euro, non pochi. Sopra la media anche i rimborsi per il vitto di Paola Taverna, che a ottobre ha speso in pasti 1.200 euro. Tutte spese giustificate, diciamo, esponente del Movimento 5 Stelle per esponente del Movimento 5 Stelle, quanto si tengono, quanto restituiscono della diaria. Che dire, dovremmo parlare anche di questa cosa, ma abbastanza, io l'ho scritto su Twitter, insopportabile, queste accuse di satira sessista che ieri la Presidente della Camera Boldrini ha detto nei confronti di Virginia Raffaele, che ha fatto questa imitazione del ministro Boschi, che viene rappresentata come un ministro che quando viene interrogato sulle questioni serie, insomma, sfrutta il suo charme, la sua bellezza per evitare di rispondere. Questo era il senso della gag di Virginia Raffaele. Ebbene, ieri Laura Boldrini ha detto: sono satira sessista. Io dico veramente insopportabile, nel senso, questo clima per cui si critica anche la satira, poi non si capisce se la satira sia sessista solo quando colpisce alcuni esponenti pubblici, altre quando colpisce altre donne. C'era stata la settimana scorsa per esempio l'imitazione della Pascale e nessuno ha mosso un dito, tutti hanno riso molto, lo stesso ministro Boschi ha riso, ha fatto sapere, ho sorriso, mi ha fatto molto sorridere questa imitazione di Virginia Raffaele. C'è addirittura stato, come racconta il Messaggero, un deputato del PD che ha preso carta e penna. Michele Anzaldi ha scritto alla presidente Tarantola: mi permetto di chiederle se condivide l'imitazione di Maria Elena Boschi a Ballarò, se ritiene opportuno che un ministro giovane sia ritratta come una scaltra ammaliatrice che conta solo sul suo essere affascinante. È questa l'immagine che il servizio pubblico della Rai, Rai 3 in particolare, vuole dare alla vigilia dell'8 marzo? Questo ha scritto il deputato Michele Anzaldi, addirittura la presidente della Camera. Sta di fatto che questa notizia è sui giornali, il Fatto Quotidiano, un po' con Sara Nicoli a pagina 3, scrive: Boldrini fustiga contro la Boschi satira sessista. Lo stesso Fatto Quotidiano si interroga un po' di cosa abbia spinto il presidente della Camera ad andare così oltre, dicendo: mi è dispiaciuto vedere la satira della Boschi, ma se non ho visto quella sulla Pascale, ma se aveva gli stessi accenti sessisti mi sarebbe dispiaciuto. Ci sono tanti modi per fare satira, ma quando si cede al sessismo diventa altro e lo apprezza di meno. Vabbè, andiamo in pubblicità, che è molto meglio, e poi ripartiamo dalla politica. Le tasse che da mercoledì vengono tagliate, lo ha annunciato il premier Matteo Renzi. 24 mattino. Va bene, eccoci alle 7:35 minuti. Allora, ci credete o no, Matteo Renzi ha detto ieri da Fabio Fazio: da mercoledì inizieremo a tagliare le tasse nel Consiglio dei Ministri. Lo stesso Renzi ha detto: lo so, non ci crede nessuno, ma è questione di tempo a questo punto, 48 ore. Sta di fatto che il Corriere titola a pagina 2: taglierò le tasse per aiutare le famiglie. Noi ascolteremo tutti, ha detto Renzi, ma quello che c'è da fare lo sappiamo e lo faremo pensando ai cittadini. Lasceremo soprattutto qualche decina di euro in più nelle tasche delle famiglie, a chi per esempio guadagna 1.500 euro al mese, confidando nel fatto che saranno soldi che verranno rimessi in circuito, dunque rilanciare i consumi. Chi prende 1.200 euro, se arriva a 1.300, non credo che quelli in più li metterà nel risparmio. se l'è presa anche sul derby, no? Il derby tagliare l'IRAP o tagliare l'IRPEF, cioè tagliare le tasse sul lavoro, l'IRAP e dunque favorire magari le assunzioni, come chiedono le imprese, oppure tagliare l'IRPEF, come sembra orientata a fare Renzi, e dunque dare soldi più freschi subito per magari chi guadagna meno per rilanciare i consumi. Questa è la doppia ricetta. A questo punto chiederò a Confindustria e CGIL che cosa hanno fatto per questo paese negli ultimi 20 anni. Ascolteremo tutti, ma cosa c'è da fare lo sappiamo perfettamente da soli. Poi ha accusato la CGIL di fronte alle accuse di Camusso di culto della personalità. Ha risposto il Premier, è la cosa più carina che ha detto da parecchio tempo a questa parte. E di fronte ancora alle accuse, ma insomma avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione. Insomma, un Renzi che sembra un Renzi di lotta, un Renzi deciso a fare questa scelta. Ha citato anche questa frase di Walt Disney, no? La differenza tra il sogno e il progetto è la data. E quindi la data è questa, mercoledì. Sta di fatto che ci sono già le analisi. Che succederà? Pagina 4 di Repubblica. Così il taglio dell'IRPEF darà una spinta alla crescita. Il PIL più su dello 0,8%. Roberto Petrini racconta il derby tra IRPEF e IRAP, sul quale governo e maggioranza si confrontano. Si gioca tutto sulle tasche degli italiani. 10 miliardi. Sui quali fa perno l'ipotesi conservata nei cassetti di Renzi e del sottosegretario Delrio, se indirizzati integralmente sull'IRPEF cadrebbero sulle buste paga ad un ritmo di 80 euro netti al mese, che si avvicinerebbero a 100 se si tiene conto che una mini manovra di riduzione dell'IRPEF in busta paga è già stata varata dal governo Letta. Questa cifra viene anche citata dal Messaggero a pagina 3, 100 euro in più in busta paga a chi guadagna 1500 euro al mese. Questa è la sfida di Matteo Renzi, se questi 10 miliardi vengono tutti destinati al taglio dell'IRPEF. C'è da dire che su questo c'è appunto il cosiddetto derby, il duello, le due scuole di pensiero. Per esempio il vice ministro all'economia Enrico Morando viene intervistato dall'Unità da Massimo Franchi e dice se la priorità è l'occupazione bisogna cominciare dall'IRAP. Morando infatti si è più volte sbilanciato a dire io inizierei a tagliare l'IRAP invece dell'IRPEF. Se consideriamo come priorità combattere la disoccupazione giovanile e femminile, il taglio dell'IRAP ha certamente effetti migliori. L'IRAP è l'imposta più nemica dell'occupazione che ci sia. E ai dubbi di Angeletti, che ieri sull'Unità sosteneva il contrario, spiega Morando: se un piccolo imprenditore ha due lavoratori e decide di assumerne un terzo, la nuova assunzione gli alza l'imponibile a fini IRAP perché il costo del lavoro viene incluso. Tagliarla gli permetterebbe di certo di assumere con meno pensieri. Però riconosco che il taglio dell'IRAP ha meno effetti sulla ripresa dei consumi. E dice Morando, sarà Renzi a decidere quale sarà la priorità. La bilancia penderà verso il taglio dell'IRPEF se Renzi individuerà la crisi dei consumi come più grave di quella occupazionale e vorrà dare uno shock positivo alla domanda effettiva interna. Se prevarrà invece il taglio dell'IRAP sarà viceversa, cioè pensa che il problema occupazionale sia più grave ed affrontare subito rispetto alla ripresa dei consumi. Sta di fatto che si taglia o non si taglia, certo è importante sapere se prima IRPEF o IRAP. Gli italiani intanto vorrebbero vedere un taglio delle tasse da una parte e dall'altra, o sul lavoro o sull'IRPEF, e dunque per spingere sui consumi. Chi l'ha presa di punta è Susanna Camusso. La Camusso va all'attacco, titola Repubblica, il governo ci ascolti o siamo pronti allo sciopero, il direttivo subito misure sul lavoro e fisco, la CGIL chiede che il governo metta i lavoratori al centro dell'annunciata riforma delle leggi sul lavoro di mercoledì, in caso contrario prepara una mobilitazione che non esclude il ricorso allo sciopero, cioè a dire che sono slogan non certo freschi come una rosa nel 2014, sentiti e risentiti. Sta di fatto che Susanna Camusso passa all'attacco, allo scontro frontale. C'è anche da dire che c'è un fronte interno. Ieri c'era questa lettera su Repubblica di Landini, della FIOM, l'ala dunque considerata dei metalmeccanici della CGIL, che sta subendo anche uno scontro, una frizione interna abbastanza evidente con Susanna Camusso, e quindi il timore secondo molti giornali è che si cementi questo rapporto tra Renzi e Landini e Susanna Camusso venga con la CGIL tagliata un po' fuori. Chi aspetta al varco Matteo Renzi, lo dice chiaramente in un'intervista al Giornale in prima pagina e poi in intera pagina 3, il consigliere di Forza Italia Giovanni Toti. Renzi ha 3 giorni, ora lo aspettiamo al mercoledì da Leoni. Ecco, utilizza questa espressione del film del 1978, è il mercoledì da Leoni, lo attendiamo, i nodi arriveranno al pettine. Dunque, giudizio sospeso su Renzi, nel discorso con cui ha chiesto la fiducia ha fatto un'analisi molto lucida dei problemi del paese, attendiamo le soluzioni, vediamo se sono percorribili. Insomma, l'attesa del mercoledì. L'attesa è anche per la riforma elettorale. La riforma elettorale sarà il giorno decisivo questo per l'approvazione alla Camera? Non si sa, la discussione verte soprattutto sulla questione di genere. Ma ci concentriamo su questo dopo aver salutato Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Eccoci buongiorno, qua. Buongiorno, bentornato. Grazie, grazie. Bentornato, eri via? Ero via. In giro per l'Italia. Via da me stesso. Ero via da me stesso. Sì, capisco. Sei stato a Udine per caso? No. A Udine? No. Non ti è capitato? Ma... No, perché? Meglio. No, così chiedevo, perché è un posto anche bello, una città da visitare, bellissimo. E tu chiedevi, anche lo stadio. E io rispondevo, non conosco. Va bene. No. Senti, conosci invece questa circostanza poco così poco invidiabile del fatto che anche quando ti fai certificare i crediti che hai verso la PA, poi la banca non te li prende, perché sì. Lo segnaliamo oggi sul Sole 24 Ore, è un lavoro di Valeria Uva, anche con poi il contributo di Carmine Fotina, perché oggi tra l'altro dovremmo riuscire a spiegare alla UE perché la nostra pubblica amministrazione non paga nei tempi dovuti. E niente, la vicenda è proprio questa qua, cioè uno dopo tanta fatica si fa certificare il credito, però poi si fa fatica a tradurlo in contante. Ma infatti guarda, in apertura ne parlava anche il Corriere, diceva che addirittura ci sono ASL che pagano a 1300 giorni, ma vale, dai, andiamo avanti. Nel frattempo guarda, nelle pagine di Imprese e Territori oggi scopriamo che i pagamenti questa volta tra imprese in Cina sono più veloci che da noi, e non è un benchmark onorevole neppure questo, ma poi avremo un fisco tutto nuovo, non da mercoledì però, non da mercoledì, ma avremo questa delega fiscale. Abbiamo provato a guardare dentro questa vicenda della promessa di detrarre tutte le spese, tutti gli scontrini. C'è un'analisi molto puntuale di Cristiano Dell'Ost, Giovanni Parente, vediamo come si potrà configurare. Tu vuoi andare all'università? Forse no, tu non sei più in età. No. Ho già dato. Ecco, però per tutti quelli che invece sono interessati, attenzione, parte il momento dei test per le facoltà a numero chiuso, abbiamo una guida oggi in regalo con appunto la preparazione ai test, e poi c'è anche tutto uno sviluppo su internet per poter simulare appunto i test di medicina, architettura, odontoiatria e veterinaria, nonché poi quelli che verranno successivamente le altre professioni sanitarie. Insomma, questo è un quadro parziale dell'offerta, questo è il parziale del primo tempo del Sole 24 Ore del lunedì. Già, non lo so, ti occupi di calcio, il campionato è sospeso da mesi, io non lo so, c'è la Champions League martedì e poi dopo credo che sospendano anche quello. C'è il martedì da Leoni, quindi un martedì sì, atletico. Martedì più da coglioni temo. No, beh, da parte nostra. Non comunque essere così pessimista, no. Non è detto che giocate a Udine? No, giochiamo ad Atletico, giochiamo. Atletico. Ah, sì, vabbè. Sai questa città, va bene. Mauro, ti ringrazio. Comunque martedì è domani peraltro, ti ritroviamo martedì al mattino, e mercoledì non lo so. Guarda, mercoledì sentiamoci comunque, sentiamoci. Traffico per tutti. Traffico. A lei che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto, eh. Grande, grandissimo il Gabibbo. Allora, cari italiani, è il giorno decisivo per l'approvazione, solo alla Camera, poi c'è l'approvazione al Senato e quindi continuerò a contare io, della riforma elettorale. Tutto l'inghippo è sulla questione di genere. Garantire una rappresentanza, credo del 60-40% o parità, eccetera, di candidate uomini e donne, candidati uomini e donne, questo è lo scoglio principale. Il testo originale dice che in ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50%, ecco appunto 50 e 50. Ma su questo, allora, i giornali si dividono. Per il Corriere, Italicum alla stretta finale, sulle donne non c'è l'intesa, mentre invece per il Messaggero, sulle donne vicino l'accordo. Stai a vedere anche qui che succederà. Sta di fatto che racconta il Corriere che i cellulari degli addetti ai lavori sono rimasti accesi tutta la notte, da una parte Denis Verdini, Renato Brunetta e Francesco Paolo Sisto, plenipotenziari di Berlusconi, Sisto sarà il nostro ospite alle 8.45, dall'altra Graziano Del Rio, Lorenzo Guerini e Maria Elena Boschi, ai quali Renzi ha lasciato carta bianca. Si accorderanno sul tema parità di genere, su questo ci sono tante interviste, per esempio Rosy Bindi, intervistata da Monica Guerzoni sul Corriere a pagina 8, dice: non so se voterò al Senato, la legge va anche cambiata. Insomma, viene accusata addirittura dal Corriere a un certo punto di mettersi di traverso, l'accuseranno anche di sabotaggio. Comunque, sulla questione di genere, dice Rosy Bindi, è un principio non negoziabile e irrinunciabile. Se non c'è, io mi riservo di non partecipare al voto. Dall'altra parte, Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Ugo Magri a pagina 5 della Stampa, dice: la corda è stata tirata troppo. Prima fa un lungo excursus di come si è arrivati a questa riforma elettorale e poi sulla questione della rappresentanza di genere dice Brunetta: non arriviamo da nessuna parte, perché nonostante le legittime pulsioni manifestate da molte parlamentari, le chiama così, pulsioni, né il PD né Renzi hanno tuttora presentato a Berlusconi richiesta di ulteriori modifiche. Potrebbero ancora farlo, ma i tempi sono ormai stretti, perché oggi si chiude. E comunque, se noi ritenessimo che la corda è stata troppo tirata, non se ne farebbe nulla. Ma al momento il dato importante è proprio questo: il patto con Renzi è stato finora rispettato da tutti, i cambiamenti sono stati sempre condivisi. Staremo a vedere anche per il Corriere della Sera. La lite è con tutte le deputate che ieri hanno chiamato, da Stefania Prestigiacomo a Mara Carfagna a Gabriella Giammanco, hanno chiamato Berlusconi almeno per chiudere sulla questione 60 e 40, almeno sui capilista, almeno mettere 60 e 40 i capilista. Bisognerà vedere, come racconta Tommaso Labate, se questa pressione su Berlusconi avrà avuto effetto, perché il tema è soprattutto all'interno di Forza Italia, dove ci sono più resistenze, o se invece Berlusconi da un certo punto di vista cederà. Come ha detto, come scrive Fabrizio Roncone, intervista anche Stefania Prestigiacomo a pagina 9, i maschi con lo scrutinio segreto vogliono conservare la poltrona, questa l'accusa politica. Per quel che riguarda invece la cronaca che il lunedì purtroppo spesso è cronaca nera, vi segnalo ovviamente la vicenda di Lecco, dove una donna ha ucciso, in preda alla depressione evidentemente, ha ucciso le sue tre figlie, tre sorelline uccise dalla madre. Tutti i giornali raccontano almeno due pagine questa terribile vicenda di cronaca. Simona ha provato a chiamare il 112, racconta il Corriere, una delle tre vittime è riuscita anche in un certo momento a prendere il telefono, a chiamare il 112, ma poi è stata sopraffatta dalla madre. La madre, che raccontano Giusy Fasano e Gianni Santucci sul Corriere della Sera in un profilo, e cercare di tracciare un profilo della vita, Edlira Dobrusci, 37 anni, di origine albanese, da mesi assente, sepolta da un cumulo enorme di dispiaceri, a volte veri, a volte immaginari, il marito che la lascia per una ragazza più giovane di lei, aver perduto il suo quarto bambino, un affare da 20.000 euro andato a rotoli, i problemi di salute, il lavoro che non c'è, quell'arrangiarsi quotidiano con tre bambine da mantenere e 1.100 euro di alimenti al mese. A un certo punto il marito che se ne va, la lascia per una ragazza di 25 anni, la presenta anche alla sua famiglia. A quel momento Edlira capisce che questo è il dramma che si aggiunge a tutti gli altri fino ad arrivare alla vicenda finale davvero tragica delle tre bambine uccise di 3, 11 e 13 anni. E questa è certamente la notizia di cronaca che prende più spazio sui giornali, insieme a questa che viene rilanciata dal Messaggero e da Repubblica. Il Papa chiede di studiare le unioni gay, non le approva ma vuole capire. Così Marco Ansaldo su Repubblica, ma c'è anche una pagina sul Messaggero. A firma Franca Giansoldati, secondo le dichiarazioni. Le dichiarazioni del cardinale arcivescovo di New York Timothy Dolan, dopo il tema dei sacramenti da concedere ai divorziati risposati, Papa Francesco comincia a meditare sulle unioni gay. Implacabile come un rullo compressore, la vitalità di Bergoglio non si arresta davanti al primo anniversario del conclave, e fa sapere come rivela il cardinale Dolan avvia una riflessione sulla questione delle unioni omosessuali. Il Papa non è arrivato a dire che è a favore, precisa il porporato americano, ma Francesco ritiene che la Chiesa debba esaminare questo argomento complesso perché alcuni stati dell'Unione hanno deciso, stanno decidendo di legalizzare le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Un tema certamente che farà discutere. A questo proposito vi segnalo, c'è solo tempo per il titolo, a pagina 13 del Corriere, un'intera pagina di Michele Farina, vivere nascosti da gay in Uganda. È una bella pagina perché si fa un viaggio in quel paese dove è stata appena approvata una legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali, e il Corriere va in Uganda, parla con alcuni omosessuali, racconta come vivano davvero nel terrore. È il momento della carta costa che torna, l'articolo più inutile scovato sui giornali vince oggi, stravince Repubblica che dedica un'intera pagina a che cosa? Mi trasformo in un segugio. Quel profumo di vaniglia che spinge a fare shopping è il marketing degli odori. Un'intera pagina. Se sentite odore di biscotti al cioccolato entrando in panificio, magari è perché il panettiere ha spruzzato un profumo. Lo stesso vale per l'aroma di pancetta e carne affumicata nei fast food. È il sensory branding. Un'intera pagina sul profumo di vaniglia. Ma qui c'è profumo di carta che costa! Ma amici di Repubblica, dai, andiamo al giornale radio, va!